Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, benvenuti. Siamo a Radio 24, programma dedicato alla salute e al benessere. 11:09 e con Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo subito a sentire i temi di oggi. Mantenersi in forma, le strade possibili. Due gocce di profumo. I vantaggi dello yoga. Chiudiamo la settimana in bellezza, direi in forma. Lunedì abbiamo dedicato un'intera puntata ai chili di troppo, a quelli che molti di noi hanno accumulato durante le vacanze. Abbiamo con il dottor Berrino parlato di strategie alimentari, direi di stile di vita, e nello stile di vita naturalmente vogliamo inserire come sempre l'attività fisica. E qui in studio con me per parlarne il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo, responsabile del centro sportivo DDS di Settimo Milanese. Dottor Confalonieri, buongiorno, ben ritrovati tutti. Volevamo chiamarla lunedì perché così per completare un po' l'informazione, perché dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo, ma dobbiamo anche muoverci, e certo, muoverci bene, certo. E poi le telefonate degli ascoltatori, i messaggi, un po' le ricette del dottor Berrino, insomma, non c'è stato più tempo. La puntata è stata molto ricca, vi ho ascoltato, quindi sono preparato. È preparato. E la completiamo oggi invece di averlo fatto direttamente lunedì. Allora, 800 24 00 24, oggi direi che possiamo occuparci di chi vuole dimagrire e quindi utilizza l'attività fisica per rimettersi in forma, per chi vuole invece investire in salute e quindi beneficiare di tutto quello che l'attività fisica, ne abbiamo parlato tante volte, comporta: diminuzione della pressione arteriosa, tiene a bada il colesterolo, produce endorfine, quindi ci fa anche stare di buon umore, e di chi invece, sono tanti, preferisce l'attività sportiva proprio per sfogarsi, stare bene, divertirsi, stare con gli amici. Tre tipologie differenti di ascoltatori che le abbiamo così divise, ma le tre cose possono anche convivere. Perfetto, infatti oggi inviterei proprio gli ascoltatori a risponderci e a telefonarci, a scriverci per dirci: faccio sport perché voglio essere più bello, quindi, o più bella, più magro, più muscoloso, meglio definito, oppure faccio sport perché così vivrò meglio, vivrò più a lungo, investo sulla mia salute, scelgo lo sport come stile di vita, o infine faccio sport perché mi voglio divertire da solo o con gli amici, mi voglio rilassare, voglio scaricare le tensioni. Vediamo un po' alla fine dell'ora qual è il partito prevalente fra i nostri ascoltatori, ma non solo. Vediamo che sport avete scelto per raggiungere questo obiettivo, perché magari avete un obiettivo ma scegliete la strada sbagliata o non la migliore. Due grandi gruppi però, penso che possiamo sottolineare: le persone che si affidano a un professionista, a una palestra, e quindi si iscrivono a dei corsi, e invece un po' le persone che dicono: beh, io mi organizzo da solo o con gli amici. E quindi cercheremo anche di dare dei consigli. Avete intenzione di iscrivervi in palestra? L'avete fatto? Volete raccontarci se è stata una scelta vantaggiosa? Oppure invece avete deciso quest'anno di buttarvi nella corsa, di scegliere con degli amici di montare in sella ad una bicicletta, e quindi volete dei consigli o volete raccontarci perché questa scelta la considerate vantaggiosa per il vostro benessere? Quindi ci occuperemo anche di questo, dottor Confalonieri. Certo, preferite essere obbligati e guidati, essere iscritti a un corso o ad una palestra, oppure preferite essere liberi di gestirvi attraverso un'attività individuale? Quali sono i vantaggi, quali sono gli svantaggi di queste due scelte, e poi le vostre storie. Siete stati contenti della scelta che avete fatto oppure no? Le è sfuggito quello obbligati? Sì, non mi è proprio fatto sfuggito. Apposta, l'ho fatto apposta, nel senso che alla fine per molti la condizione per fare sport e farlo in modo continuativo è aver pagato un corso, aver pagato una palestra, avere delle giornate, degli orari obbligatoriamente da dedicare a questo corso, ed in questo modo ci si costruisce intorno i programmi e la giornata. Se no, non si trova lo spazio, magari si comincia pieno di entusiasmo e poi si smette. Per altri invece è necessario

il profumo. E forse andrebbe rivalutato in genere. C'è molta attenzione all'immagine, al vestito, al viso, c'è poca attenzione al profumo, ma se ci pensiamo bene, di un uomo o di una donna a distanza spesso non ricordiamo il vestito, non ricordiamo il viso, e invece ricordiamo per sempre il profumo. Bene. Quindi mi è piaciuta molto questa considerazione di oggi. 824 0024, cerchiamo di entrare subito nel nostro tema, e quindi vi organizzate da soli per rimettervi in forma, per scaricare le tensioni, per investire in salute, oppure preferite frequentare corsi, palestre, insomma, l'essere obbligati in qualche modo vi fa scattare quella molla e perseverare nell'esercizio fisico. Abbiamo due testimonial oggi, abbiamo Helen Hidding. Ciao Helen. Buongiorno a voi. Tra l'altro autrice di un libro di prossima pubblicazione, Mamma mi racconti una storia, Helen, quindi tu giustissimo, sei una mamma, e quindi sicuramente darai anche dei rappresenti in questa trasmissione, le mamme all'ascolto. E abbiamo anche Elena Di Cioccio. Ciao Elena. Buongiorno Nicoletta. Elena, piacere di averti qua. Tra poco ti vedremo su Rai 2, sarai conduttrice di Scorie. Sì, in realtà abbiamo cominciato la prima puntata mercoledì notte su Rai 2, bella tardi come sempre, dopo mezzanotte, dopo X Factor. E quindi è andata bene. Senti, allora, vediamo, Elena, molto impegnata, impegni televisivi, insomma, si sa che si galoppa. Tu a che cosa ti affidi? Fai da te oppure sei di palestra? Sono di palestra, mi affido al personal trainer Cristian, che di fronte a me, perché ci troviamo in palestra. Mi avete salvato da una ripetizione di addominali con gambe all'insù, per cui ringrazio. Ripetizioni di addominali con gambe all'insù, dottor Confalonieri, ma è tosto questo? Tosto, è una posizione corretta perché preserva la schiena e impegna in modo completo ed efficace gli addominali, quindi per ora è promosso il personal trainer di Helen. Ma promosso perché è bravissimo, ma anche Elena, perché si sottopone regolarmente a queste lezioni, che però dal tono della voce non sembrano proprio tortura. Ogni quanto fai ginnastica, Elena? Guarda, forse per me scapperei, nel senso che non mi piace fare sport, ma sai, ogni tanto non ti viene proprio tanta voglia. Però e invece avere comunque una persona con la quale allenarsi è uno stimolo in più, quindi Elena, ti sentiamo un po' malino perché l'audio, magari proviamo a richiamarti. Comunque Elena, abbiamo visto che è testimonial delle tante nostre ascoltatrici, anche ascoltatori, che si affidano o a un personal trainer o comunque ai corsi di una palestra. Andiamo invece alla nostra mamma Helen Hidding, che forse non ha tanto tempo di andare in palestra, perché quando i bambini sono piccoli ci assorbono completamente. Che cosa fai tu? Ecco, io sono più quella di fai da te, ecco, poi appunto ribadisco quella che hai detto anche tu, avendo una piccola bambina a casa, è un po' lei la mia palestra, perché vabbè, la scuola, poi dopo scuola dobbiamo andare a ginnastica, poi piscina, perciò con lei, e penso che tutte le mamme mi capiscono, quando ci sono i bambini si corre, siccome sempre, si corre sempre a destra e a sinistra, poi a casa quando ci siamo, siccome la piccola balla, ama ballare, sì. Io la mia se lo posso dire così, la mia palestra è un po' con lei, ballando in casa, appunto accompagnando sempre dappertutto, e mi diverto e mi alleno, mi tengo in forma. Ti tieni in forma, stai con la tua bambina. Pensa, Helen, che appunto il dottor Confalonieri più volte ha suggerito ai nostri ascoltatori con figli di fare con loro la lotta, per stare con loro, e quindi c'è tutta la gestualità, il contatto fisico, no? La conoscenza, ma nello stesso tempo c'è anche un po' la fatica, dottor Confalonieri. Quindi Helen balla, gli uomini possono fare la lotta, i nostri figli diventano personal trainer. Sì, io mi sono ritrovato completamente in quanto diceva. Io non ho mai fatto tante attività come da quando ho una bambina, adesso è sui 2 anni e mezzo, quindi figuriamoci, e c'è proprio l'inseguimento, il ballo, la lotta e tutti quei giochi che spontaneamente vengono organizzati, che sono un modo intelligente tutto sommato di fare attività fisica. Allora, prima di salutare la nostra Elena ed Elena che siamo riusciti a riacciuffare. Elena, ti abbiamo salvato da un'altra serie di addominali? Sì, guarda, mi guarda malissimo. Ecco, allora io... Guarda, muoviti. Ecco, però se no ti viene il fiatone, non puoi rispondere. Manda una buona, un buon motivo per iscriversi a una palestra, insomma, affidarsi a un torturatore gentile. Beh, perché si prende cura di te, perché comunque ti fa mantenere in forma e soprattutto ti dà la carica che sicuramente ti danno i figli quando hai l'angelo per casa. Grazie, è obbligato, è meglio che qualcuno ti obblighi. Bene, allora lasciamo Elena Di Cioccio alle sue esercizi, ai suoi addominali. Saluto Helen Hidding, un bacio alla tua bambina. Grazie. E noi abbiamo in linea Stefano da Bergamo, che saluto rapidamente. Buongiorno. Stefano, buongiorno. Che cosa fa lei per mantenersi in forma? Beh, guardi, visto l'ultimo intervento, io avendo 3 figli maschi dai 13 ai 7 anni, puoi immaginare l'attività fisica e le lotte che devo fare. A 3 personal trainer, non uno, 3. Ho 3 in famiglia, però sono uno dei patiti, so che il professore storcerà forse un po' il naso, dei patiti della partitella del lunedì sera con gli amici, nonostante abbia ormai 44-45 anni, però la partita del lunedì sera per me ha un che di sacralità. Calcetto adesso, perché ormai sono calcio. Dottor Confalonieri, quindi Stefano è allenato dai 3 figli. Noi abbiamo quasi i mercati, anzi stiamo per andare ai mercati, ma Stefano dice non sarà tanto d'accordo. Invece sono d'accordissimo, ecco, è l'ancora di salvezza per tantissimi, è una delle attività più diffuse, unisce il divertimento a un esercizio completo, perché c'è la componente di resistenza, c'è la componente di velocità, c'è il mantenimento di una coordinazione e di riflessi vivi, giovani. Quindi sono totalmente d'accordo e amo tutti questi che hanno la tradizione del calcio, del calcetto, quasi sempre lunedì sera, guarda caso. Quasi sempre a lunedì, perché dopo il fine settimana in famiglia, sera c'è anche uno ha bisogno di andare un pochino fuori. Eccoci, siamo tornati, abbiamo tanti ascoltatori in linea. Saluto subito Francesca da Verona. Parliamo di attività fisica per stare meglio, per divertirsi. Iniziamo a mettere le cose positive e anche, se vogliamo, per diventare più belli, delineare un po' la figura, potenziare la massa muscolare, ma soprattutto per stare bene. Vediamo che cosa ci racconta Francesca da Verona. Anzi, sentiamo. Buongiorno Francesca. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno, grazie. Come diceva la signorina, per me fare sport è proprio uno stile di vita che ho ereditato fin da quando ero piccolissima da mio padre, medico, che è un giovanotto che lunedì compirà 80 anni e che ancora pratica sport quotidianamente. Vede. E ha trasmesso a mio fratello e a me questa passione. Da sempre pratichiamo sport. Rinunciamo magari a qualcos'altro, ma non rinunceremo mai a una seduta sportiva con gli amici o per conto nostro. Francesca, ma lei che attività pratica? Cosa fa? Vengo soprattutto dal tennis e dallo sci. Sì. Poi negli anni ho iniziato con il podismo, ho un bellissimo gruppo di amiche con cui un paio di volte all'anno organizziamo anche brevi viaggi nelle capitali europee dove facciamo le mezze maratone. E poi gioco a golf, perché ho sempre praticato sport agonistico e il golf mi consente di farlo anche adesso che ho 50 anni. Francesca ci ha raccontato una cosa interessante di cui abbiamo parlato più volte, dottor Confalonieri, proprio lo sport come stile di vita. Francesca dice: mio papà ha insegnato a me e a mio fratello ad inserire lo sport, quindi un po' come è un'abitudine, no? Come lavarsi i denti, come mangiare bene, e mi sembra proprio, quindi si cresce insieme, un'indicazione che dobbiamo dare ai genitori all'ascolto che hanno bambini magari piccoli, cioè abituarli senza stressarli, perché adesso poi c'è la corsa e nuoto e ginnastica e tennis e questi bambini rimangono, no, troppo berati, ma ecco, un'attività fisica. Grazie Francesca. Dottor Confalonieri. Sì, è una testimonianza eccellente questa di Francesca, perché c'è dentro tante scelte intelligenti, cerco di essere sintetico. La prima, da giovane 2 sport ad elevato impegno muscolare, il tennis e lo sci, ma estremamente divertenti, estremamente dinamici, estremamente piacevoli. E poi un'evoluzione, la scoperta della corsa, che è l'attività di base, lo sport di base, condivisa, quindi uno momento di compagnia, momento di divertimento e anche momento di cultura. Con la scusa della mezza maratona visito il mondo, fantastico. Però Per molti nello sport è fondamentale la componente agonistica, cioè io mi diverto se c'è anche la competizione e scelgo una competizione adatta a quella che è la mia età e quindi il golf. Direi che c'è dentro veramente tanta intelligenza, forse ereditata anche dal padre in questa testimonianza e tanti insegnamenti, quindi grazie Francesca. Andrea invece ci chiama da Milano. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare solo una domanda, che c'è mia moglie che cerca di buttarsi nello sport, nella corsa, però è sempre bloccata dal dolore di sciatica e questo le impedisce di avere la continuità di fare questo tipo di attività. Andrea, invece lei cosa fa? Io corro. Invece sua moglie vorrebbe raggiungere... Moglie lo insegue. Vorrebbe correre anche lei, però poverina non riesce, che poi tra l'altro io... cerco di convincerla in tutte le maniere, però poverina molte volte viene proprio bloccata da questo tipo di dolore e non riesce più a... Ma lei intanto vada un po' più piano e l'aspetti. Intanto il dottor adesso il dottor Confalonieri sicuramente le dà un buon suggerimento per sua moglie. Ma innanzitutto il primo consiglio è che forse Andrea dovrebbe, invece che correre ogni tanto, andare a nuotare, così la moglie lo può seguire, perché indubbiamente dietro la sciatica ci sarà un problema a livello della colonna che va affrontato e risolto per poi mettersi a correre. Quindi primo consiglio: facciamo un'attività sportiva che non sovraccarichi la colonna come la corsa, e quindi ho fatto l'esempio del nuoto. Secondo consiglio: valuti con attenzione qual è il problema effettivamente a livello della colonna che scatena il dolore nervoso e quindi la sciatica, e con un lavoro preventivo di ginnastica, di potenziamento e di fisioterapia nella gran parte dei casi lo può risolvere, e quindi di mettersi gradualmente a correre insieme al marito. Vorrei anche leggere qualche messaggio dei nostri ascoltatori che arrivano al 349-238-6666. Ne ho uno che secondo me è abbastanza complesso, insomma stimolante direi. 36 anni, sempre stato sportivo, da poco faccio un lavoro che mi lascia libero tutte le mattine, settimane alterne, ritmo discontinuo. Quindi come organizzare il ritmo di mantenimento tra nuoto e jogging? Grazie Marco Montagnana. Bene, questo è un messaggio importante. Perché? Perché ci consente di dire che tutto sommato non è un gran problema se anche ci alleniamo una settimana sì, una settimana no, perché soprattutto facendo un'attività aerobica, quindi un'attività di resistenza come il jogging o come la corsa, gli effetti sono relativamente stabili e quindi si mantengono per una settimana, e quindi la settimana successiva il nostro ascoltatore può ricominciare da dove era arrivato senza preoccuparsi più di tanto. Farà una settimana di sport e una settimana di pausa, e l'alternanza tra jogging e nuoto nella settimana di sport va assolutamente bene. Andiamo a Diego invece, che ci scrive: tanto sport, non ci dice quanto però, e in particolare attività anaerobica può comportare uno stress del fegato? Dunque, precisiamo che l'attività anaerobica è l'attività ad alta intensità, quella in cui utilizziamo energia o produciamo energia attraverso un accumulo di acido lattico. E le attività anaerobiche di per sé sono meno consigliabili di quelle aerobiche, perché sono più traumatiche sia a livello cardiovascolare, sia a livello muscolare, sia a livello per esempio epatico, perché lo smaltimento dell'acido lattico prodotto, che è assolutamente una sostanza naturale, avviene anche e soprattutto attraverso il fegato. Quindi se abbiamo un fegato perfettamente funzionante, problemi zero. Se abbiamo un fegato che già ha qualche problemino, dovremmo evitare l'attività di tipo anaerobico. E quindi preferire altre... qualcosa di più tranquillo, esatto. Soft. Andiamo a Rimini, ci aspetta Massimo, buongiorno. Buongiorno. Massimo. Io sono uno di quelli che ha pensato a lavorare dai 25-26 anni fino ai 44, per cui ho ridotto una quindicina di chili in più, un po' di pressione alta, il dismetabolismo... Ho scoperto la corsa grazie a un medico qui di Rimini e non mi sono più fermato e non mi fermerò mai più. Credo che sia una grande sciocchezza anche sotto profilo della carriera professionale, quella di stare fermo tanti anni ed accumulare tanti problemi. Ora lavoro meglio, con più energia, con più ottimismo, con grande capacità e con un benessere fenomenale, insomma non mi fermerò mai più. Ma Massimo, la sua telefonata ci fa molto piacere, perché mi dà modo di sottolineare tanti messaggi che stanno arrivando dai nostri ascoltatori assolutamente in linea con lei, e mi dicono ad esempio che le migliori decisioni le prendono proprio correndo, facendo attività sportiva, nuotando, insomma uno facendo un po' di moto pensa a modo anche un po' di pensare alla vita e al lavoro e a ricaricarsi, come racconta Massimo. Ma lei che corre? Quanto corre, Massimo? Ah, ormai non mi muovo per meno di 10 km alla volta, tendenzialmente 3 volte alla settimana, cerco di stare tra la soglia aerobica e la soglia anaerobica. E sono partito con un modello misto, adesso vado per conto mio, ma ho iniziato facendomi un po' guidare, avendo i parametri giusti per capire cos'era utile a me, perché uno degli obiettivi era perdere peso, perdere pressione, quindi ho capito qual era lo schema di allenamenti che faceva per me e adesso continuo a seguirlo senza bisogno di particolari puntelli, ma proprio perché il benessere che vedo alla fine dei 10 km è tale che mi fa andare. Magnifico, quindi il consiglio che può dare Massimo è: fatevi aiutare all'inizio, dottor Confalonieri, è così? Esatto, questa è un'altra preziosa testimonianza, ormai abbiamo degli ascoltatori che possono fare da conduttori. L'ideale è all'inizio farsi guidare, imparare ad ascoltare il proprio corpo e a gestirlo, e poi si può proseguire con intelligenza ma anche per conto proprio. È arrivato il momento del nostro consiglio di lettura, 824 0024, numero verde per parlare con noi di attività sportiva, consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola Pilates. Per ricevere questo libro a casa dovete essere però il primo ascoltatore a raggiungere il nostro indirizzo di posta elettronica, che come sapete è esserebenessere@radio24.it. In questa mail dovete mettere il titolo del libro, i vostri recapiti, compreso il numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Filippo da Parma, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Io avevo una domanda. Sì. Allora, ho 32 anni e con mia moglie non ho mai avuto un programma regolare di attività sportiva. Grazie anche a Madre Natura, che come fisico non è che sì, ha problemi di peso. Però, visto che non voglio approfittarne molto del dono che Madre Natura mi ha dato, vorrei... Le vuole dare un aiutino. Allora, chiedevo al dottor Confalonieri, visto che ho 3 sere libere la settimana, quale attività poteva essere più consigliata? Chiaramente un'attività semplice e adatta a me. Visto da fare in coppia. Vorrei svolgerla insieme a mia moglie. Perfetto, giusto? Grazie Filippo. Grazie. 3 volte alla settimana, un'attività fisica. Io direi iniziamo intanto una volta alla settimana e non 3. Così abbiamo tempo poi per farne sempre di più. E in questo caso suggerirei sicuramente un corso di danza o di ballo come prima scelta. Sembra banale, ma è molto efficace come risultati, è molto piacevole e molto divertente, quindi questo è il mio consiglio. Le leggo un messaggio che ci manda Fabrizio da Venezia. Perché nessuno dice mai di inserire il gioco come attività motoria? Sono tecnico sportivo e vorrei meno bimbi in palestra e di più nei parchi. Sono d'accordissimo. Siamo d'accordo, l'abbiamo detto tante volte, abbiamo parlato anche delle città più accoglienti e meno accoglienti e Fabrizio da Venezia viene invitato ad ascoltare la settimana, la prossimo venerdì, parleremo proprio di come scegliere, che cosa far fare ai nostri bambini. Oggi ci stiamo occupando di noi, ci occuperemo venerdì prossimo dei nostri ragazzi, piccoli e un pochino più grandicelli. Certo che i cortili, i parchi là dove ci sono veramente una palestra all'aria aperta, magnifica, poi c'è il clima che magari... diventa sì, i problemi inclemente. Sono problemi di spazi e di clima, però sicuramente la componente gioco, almeno fino a 10 anni, deve essere la componente fondamentale di qualsiasi attività fisica. Andiamo a Modena, nella provincia di Modena ci aspetta Luca. Buongiorno Luca. Buongiorno, sì, da Maranello. Maranello! Luca, come sta? Bene, grazie. Va in palestra, corre? Sì, vado in palestra. Cosa si fa lì a Maranello? A Maranello si corre veloce, come sì, potete immaginare. Privilegiato, vado in palestra perché faccio una vita sedentaria, faccio una vita molto sedentaria da ex sportivo. E privilegio però l'attività di cardio. Sì. Perché diciamo è quella che mi aiuta anche a scaricare un po' di più la tensione, facendo un lavoro di grande responsabilità, mi permette di mettere in fila più cose. Sì. E faccio anche un po' di peso. E quindi però c'è quello che trovo un po' pesante, che comunque l'istruttore basa molto anche sull'alimentazione, che capisco che è importante. Però che Maranello... Non dico di mangiare tortellini tutti i giorni, però non posso nemmeno sempre mangiare del pollo del pesce, della frutta e della verdura. E certo, c'è anche il tortellino. Le verdure sempre nell'alimentazione. Certo, Luca. Diventa uno stress, diventa. E certo, perché c'è anche il tortellino e con il dottor Confalonieri su questo siamo d'accordo, siamo no? Siamo d'accordissimo. Allora, dottore, conciliamo il tortellino con... Ma l'indicazione di mangiare proteine, quindi pesce, pollo, carne, la sera è sicuramente corretta, però io direi... A mezzogiorno, soprattutto se poi nel pomeriggio andrà in palestra, non si faccia mancare il tortellino, il primo piatto buono, genuino, fatto bene. Saranno tutti carboidrati che poi utilizzerà in allenamento. E comunque, se anche è relativamente attento durante la settimana, proprio perché ha un lavoro impegnativo e stressante e ha scelto di fare sport per stare meglio, il sabato o la domenica si può concedere tranquillamente quelle tavolate che portano buon umore e quindi portano comunque salute. E andiamo a Luciano dalla provincia di Firenze. Buongiorno e auguri per la trasmissione. Grazie Luciano, mi fa piacere. Domanda al dottor Confalonieri. Allora, 63 anni, sportivo da sempre, calcio, tennis, footing, quanto se ne vuole, fino sui 50 anni. Dopodiché comincia un problema sull'arto sinistro, la gamba, pesantezza, quella uggia che si sente, non un dolore proprio, cioè, a forza di ricerche è venuto fuori restrizione del canale lombare a livello di L5-S1 e praticamente una stenosi o stenosi. E a questo punto ho consultato alcuni specialisti, uno mi consiglia piscina solo dorso e stile libero, l'altro mi dice palestra ma con esercizi mirati perché qui perché là, un terzo mi ha detto fermo, vai solo a camminare. A seguito di ciò, aumento di peso, trigliceridi sballati, insomma di problemi che non riesco. Quando uno dice, allora Luciano, affidiamoci alle mani del dottor Confalonieri, che però ha il limite di non avere visto gli esami e quindi diagnosi telefonica, ma è vero, come dice Luciano, che tante volte si finisce da un medico, ti dice una cosa, un altro ti dice un'altra, alla fine i tre gli hanno dato tutte indicazioni corrette. Io cercherei di metterle insieme, nel senso che piscina, ok, perfetto, fai sport, ti scarichi e non sovraccarichi la colonna e quindi minori problemi a livello di questo restringimento L5-S1. Palestra, o meglio un rafforzamento mirato a scaricare la colonna e quindi a ridurre i problemi, o può fare anche della ginnastica a casa se non ha voglia di andare in palestra a farlo. E poi quando c'è tempo, quando c'è la bella stagione, adesso magari è in pensione, quindi può scegliere anche le giornate migliori, o delle camminate, o una bicicletta, avendo però cura di scegliere la posizione migliore in bicicletta per evitare di peggiorare queste problematiche che ci sono a livello della schiena. Quindi un po' di intelligenza c'era in tutti i consigli che ha ricevuto. Io saluto il dottor Confalonieri e ringrazio per essere stato con noi, appuntamento quindi al prossimo venerdì col dottor Confalonieri per parlare di attività sportiva per i nostri bambini. Voglio dare anche ai nostri ascoltatori questa segnalazione sul nostro sito, sulla pagina di Essere Benessere troverete un'intervista al professor Marco Pierotti, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale dei Tumori, che parla di un progetto che è molto attento alla salute di noi donne, riguarda il tumore alla mammella e le malattie cardiovascolari. C'è un progetto di ricerca, progetto Tevere, di cui mi piacerebbe voi aveste delle ulteriori informazioni. Il tempo a nostra disposizione, ahimè, è terminato, ma io domani torno con voi a questa casa non è un albergo a mezzogiorno e lunedì appuntamento come sempre insieme dopo il GR delle 11. Io vi invito sempre a portare un amico, dottor Confalonieri, faccio bene? Benissimo. Ecco, portate un amico o un'amica con noi e così il nostro cerchio si allarga, altri stimoli, altre domande, altre storie da raccontare. Altri ascoltatori assolutamente preziosi come quelli che abbiamo avuto oggi. Buona giornata allora a chi ha ascoltato Essere Benessere, appuntamento a domani. Buona giornata. Essere e Benessere.